Introducendo brevemente l'argomento, insomma, il tema è appunto il tema è il grandissimo corteo nazionale che ci sarà il 2 giugno per protestare contro a Coltano, esatto, per protestare contro il progetto della nuova base militare che vorrebbero costruire nel territorio di Coltano, nel territorio di San Rossore alle porte di Pisa. Però raccontaci te com'è il percorso di opposizione che dal territorio giustamente è partito per opporsi a questo progetto folle, veramente folle, guerra fondaio, e raccontaci un po' come stanno procedendo le cose. Allora, innanzitutto ciao a tutte e tutti, buon pomeriggio. Io sono Rachele e sono qua con Marta. Siamo Ciao. due delle compagne e delle attiviste del movimento No Base, che è appunto un movimento che è nato qualche settimana fa, forse compiuto il suo primo mese di nascita qualche giorno fa, perché appunto, nonostante questo progetto sia stato presentato più di un anno fa a tutte le istituzioni, e questo è un dato che noi ci teniamo molto a sottolineare, perché la trasparenza in questa fase è stata del tutto assente. Noi sappiamo, visto che le carte parlano e sono datate 21 aprile 2021, sappiamo che il sindaco, che la regione, quindi Conti e Giani e l'ente del parco, erano a conoscenza di questo progetto già da un anno fa. Questo progetto è stato completamente tenuto nascosto e un mese fa Ciccio Auletta, che è un consigliere comunale di una lista civica del nostro consiglio comunale a Pisa, di una città in comune, è venuto a sapere, è venuto alla scoperta di questo progetto. È un progetto che, come penso sappiate, prevede 73 ettari all'interno della riserva di Coltano, all'interno del parco di San Rossore e Migliarino. Ora, noi ci stiamo ritrovando, ci stiamo scontrando fortemente con questa retorica quasi negazionista, per cui nei giornali si legge che la base militare non verrà più costruita a Coltano, È che vero, è il vero. parco è salvo e che appunto i Giani e Conti vari hanno scritto che sono riusciti a vincere su tutti i fronti, perché sembrava che la questione fosse non fare una base dentro al parco, ma come dire, sia dal PD che dalla Lega c'è stato forte entusiasmo e, come dire, quasi un'emozione nell'ospitare quest'arma dei carabinieri e questa base militare che prevederà appunto i parapadutisti che si allenano e si addestrano per poi, come dire, far parte degli scenari di guerra nei futuri distopici che ci aspettano. Quindi le istituzioni ti dicano che la base militare non verrà fatta più dentro al parco, ma le carte ufficiali sono sempre le stesse. Quindi il DPCM relativo a questa base non è stato ritirato e non è stato in nessun modo modificato. Quindi quello che loro ci stanno dicendo al momento sono delle chiacchiere che si sono fatti appunto l'arma dei carabinieri, il ministro della difesa Guerini, il sindaco e Giani, il presidente della regione, in una stanzetta il 4 maggio di questo mese, dove appunto hanno deciso un eventuale spacchettamento di questa base. È stata proposta anche la zona di Ospedaletto e comunque una zona all'interno del borgo di Coltano. Noi siamo di fronte a una presa in giro e a tutti gli effetti. Qualche sera fa questi soggetti hanno deciso di chiamare un'assemblea cittadina, che è stata molto molto partecipata lunedì di questa settimana. Hanno deciso di appunto interagire con la comunità, nonostante il movimento No Base lo faccia già da settimane, e abbiamo assistito a letteralmente un suicidio politico, perché chiaramente il fatto che loro fossero a conoscenza di questo progetto già da un anno li ha messi in una posizione molto complessa, e più che altro continuavano a sminuire quella che è la devastazione di questo progetto. Sì, infatti no, è tutta una storia che veramente cioè, ha un contorno surreale quasi, cioè è un progetto Esattamente. veramente enorme che appunto che è stato tenuto completamente all'oscuro, tutti sono stati tenuti all'oscuro per un anno e si tratta veramente di un progetto di 73 ettari poi in una riserva naturale, cioè una questione, cioè una cosa veramente assurda se... Forse cambieranno i confini della riserva naturale per dimostrare che non lo Sì, fanno una riserva naturale. Sì, aggiungo un piccolo dato perché pensiamo sia molto importante capire come verrà finanziata questa base. Inizialmente era uscita la notizia che avrebbero preso i soldi dal PNRR, quindi è ancora più delirante. In realtà poi il fondo dal quale vogliono prendere questi soldi è il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che sappiamo molto bene essere un fondo che ha come destino quello di opere civili, di opere sociali, quindi per la risistemazione, sviluppo e coesione, scuole, gli ospedali. Non certo per la costruzione di una base militare, che per legge non possono usare quel fondo per opere militari. Quindi c'è anche proprio una contraddizione interna che ci sono già degli avvocati che a livello nazionale stanno seguendo ovviamente tutta l'elaborazione di questo DPCM e che a breve poi decideranno anche di impugnare questo DPCM perché ci sono delle illegalità proprio di fondo. E poi ci teniamo a sottolineare che in questa assemblea che c'è stata lunedì, questa assemblea cittadina dove appunto tutte le istituzioni si sono presentate, ci teniamo a sottolineare che l'ente del parco è stato, io lo penso personalmente, ma penso che sia condivisa, veramente il soggetto più complesso e più agghiacciante, come mi suggerisce qua la mia compagna Marta. Il presidente del parco ha detto: facciamola finita con questa storia che riguarda la guerra, perché questa non sarà una base militare che avrà a che fare con la guerra. Questa no, questo è un polo logistico. Questo non è un polo logistico. Quando l'assemblea è stata aperta dal sindaco Conti, dove è stato detto e sottolineato che farla a Coltano è fondamentale, è necessario perché è un punto strategico, perché a 5 km c'è Camp Derby, che ricordiamo essere la base militare statunitense più grossa d'Europa, e a fianco c'è l'aeroporto militare di Pisa, che ha un bel binario diretto e collegato col porto di Livorno, così che le armi e tutta l'industria bellica possa lavorare meglio. Quindi noi abbiamo assistito a una presa in giro che è stratosferica. Sì, è stato però molto forte per noi vedere che il comitato territoriale, il comitato di Coltano che è nato appena è uscita questa notizia, è un comitato in difesa del parco di San Rossore, Massasciucco e Migliarino, ed è un comitato nel quale ci sono principalmente gli abitanti di Coltano, i lavoratori agricoli, perché è importante che voi sappiate che Coltano è una zona che ha pochissime case, ma ettari e ettari e ettari di terreno coltivato, anche con agricolture di un certo tipo. Sono zone abitate, vive e, come dire, attraversate. Non loro ce la vogliono raccontare come un borgo completamente abbandonato a se stesso, nel quale una base militare è una riqualificazione. Loro ci parlano di riqualificazione. Sì, sì, che ormai è un termine che abbiamo imparato a conoscere e a veramente schivare e sdegnare. Il termine riqualificazione ormai è usato per parare qualunque schifezza che riguarda invece quello che è il capitalismo estrattivista, vuoi nelle città, vuoi nei territori, nelle campagne, vuoi ovunque. Quindi senti Rachele, ma a questo punto ritrovo il 2 giugno a Coltano Villa Medicea? Sì, allora, in realtà noi abbiamo deciso di fare questo corteo a Coltano dopo un'assemblea che è stata veramente lunga, veramente articolata, perché innanzitutto capiamo e siamo consapevoli della difficoltà logistica nel raggiungere Coltano, che è una zona che si trova banalmente a 10 km dal centro di Pisa, ma è una zona nel quale non ci sono mezzi di trasporto, e il 2 giugno, tra l'altro, nella festa della Repubblica, noi non potremo sfruttare quelli che sono i mezzi di trasporto. Detto questo, proprio perché dentro al movimento No Base, che è un movimento nato da poco, molto trasversale, dove all'interno ci sono vari soggetti, dei centri sociali di questa città, delle associazioni, le reti ambientaliste, il comitato di Coltano, tutti insieme abbiamo deciso che passare da Coltano ci sembrava la priorità. Rendersi conto di che cosa significano 70 ettari destinati alla cementificazione e a un luogo che si occuperà di morte e devastazione, per noi ci è sembrata un'esperienza che come corteo andasse fatta. Ovviamente passare per il centro di Pisa avrebbe avuto tutta una serie di facilitazioni, però abbiamo pensato a un corteo che non fosse nello stesso stile dei cortei che abbiamo attraversato, dei cortei che abbiamo costruito. E questo lo dico perché in realtà la giornata del 2 giugno inizierà dalle 11 della mattina. Ah. Il borgo di Coltano aprirà le sue porte dalla mattina, perché è nella nostra idea e nel nostro immaginario appunto immaginarci una giornata nel quale la comunità resistente, che sarà quella che difenderà poi il borgo di Coltano e le zone altrove, ovunque questa base si voglia costruire, ci sembrava appunto una priorità. Quindi dalle 11 della mattina le persone potranno arrivare, potranno farsi un giro nel parco, potranno mangiare, pranzare con noi, ci saranno dei punti di ristoro, ci saranno delle zone appunto dove ci si può riposare e accumulare tutte le energie necessarie per affrontare la giornata più calda della primavera, e poi alle 2:30 partiremo col corteo. Il percorso che faremo col corteo sarà proprio un confinare, cioè proprio un ripercorrere il confine dentro il quale vorrebbero costruire una parte di questa base militare. E il corteo è lungo circa 7 chilometri, quindi come dire non poco, però buona parte di queste sarà fortunatamente all'ombra. E i trattori degli agricoltori che lavorano quelle terre apriranno il nostro corteo. Beh, meraviglioso, meraviglioso. No, non mancheremo. Molto bene. Grazie. Molto hai bene. Qualche altro suggerimento noi... da dare per chi è interessato a venire? Comunque noi segnaliamo che sulla punta.org insomma ci sono tutte le informazioni. Sì, sì, poi daremo anche delle info su come partire da, almeno dal territorio fiorentino per raggiungere, perché ci sono già dei pullman organizzati, sì. E ora daremo sì, un sì. po' di info. Ovviamente, come ben sapete, la GKN esatto. è al nostro fianco sin dall'inizio, perché pensiamo che questa guerra, insomma, questa storia ci riguardi e nell'ottica della convergenza e nell'ottica anche di come incominciamo a porci la questione di chi decide su come si spendono i fondi pubblici e su chi decide nei propri territori. Questo è un progetto che ci viene completamente calato dall'alto, da un fondo nel quale appunto si richiedono dei soldi per sistemare delle case popolari. Sono 10 anni che il quartiere di Sant'Ermeto, un quartiere popolare di questa città, chiede 2 milioni di euro per sistemare centinaia di case popolari, e sono 10 anni che ci dicono che non ci sono soldi, e poi dal cappello cacciano fuori 190 milioni per una base militare di questo tipo. Quindi appunto, come dire, la cosa riguarda tutte e tutti, non soltanto noi che siamo più vicini al territorio e non soltanto la regione toscana, anche perché ricordiamo essere un progetto con a firma Mario Draghi e il ministro della difesa Guerini. Per raggiungere appunto il corteo, noi questa sera avremo l'ultima assemblea pubblica a Coltano, l'ultima assemblea cittadina, dove definiremo tutte le questioni più logistiche. Noi invitiamo a venire coi pullman, invitiamo a mettere a disposizione le proprie macchine per fare anche dei servizi navetta. Ci stiamo organizzando per immaginarci se ci riusciamo anche una critical mass, quindi magari delle biciclette che dalla stazione di Pisa possono raggiungere Coltano, perché mm-hmm. appunto parliamo di una distanza di 10 chilometri, mm-hmm. come dire, non per tutte e tutti, ma per molti, quindi magari stiamo cercando anche di capire se mettere a disposizione un pullman, un servizio navetta che poi dalla stazione di Pisa ci possa portare a Coltano. Ora tutte queste informazioni saranno definite stasera e poi comunicheremo a tutte e tutti. Le nostre pagine social sono in continuo aggiornamento, domani avremo un'assemblea d'Ateneo molto importante, questo venerdì sera faremo un evento di autofinanziamento in centro in città, e poi la prossima settimana sarà appunto la settimana del corteo, e quindi ci aspettano giornate molto molto intense e molto molto frizzanti. Buon lavoro. Perfetto. Senti, le pagine social se ti pagassero, sarebbe come dire. Scusate questa nota no, è perché uno sa, è un grande lavoro, lo sappiamo, insomma. Che la militanza fa questo effetto, ma poi davvero, cioè, si è attivata una macchina meravigliosa in pochissimo tempo, questo è importante, cioè, super eterogenea, cioè, dai signorotti anziani del comitato alle ragazze più giovani ai compagni che fanno più un percorso appunto cittadino o universitario, non una di meno, è molto sul pezzo, chiaramente su questa vertenza, e nell'ottica appunto di come ci insegnano i compagni e le compagne della GKN, non si salva una fabbrica in un paese al baratro, non si salva questo paese impedendo questa base militare. L'ottica della convergenza è l'ottica di un futuro nel quale le guerre e le devastazioni ambientali non siano così protagoniste nelle nostre vite, nelle nostre economie. Pensiamo esatto. che sia il punto, sì, non è alla fine non è evitare che la base venga fatta a Coltano, è evitare che venga fatta e che, che quindi no base né a Coltano né altrove, come leggo dal, dal flyer insomma che lancia il corteo, e nessuna base per nessuna guerra, è bene ripeterlo sempre ovunque. Esattamente, perché pensiamo che ci siano delle priorità dopo 2 anni di pandemia, dove gli ospedali sono andati al collasso, dove in questa città a settembre gli studenti e le studentesse di alcune scuole inizieranno la scuola in dei container, perché le scuole hanno bisogno di essere risistemate, c'è un ordine di priorità. E poi ci vogliamo anche immaginare un futuro in cui lo strumento della paura, della guerra, della repressione non siano assolutamente dei cardini centrali nella nostra vita, in un mondo veramente che anche a livello ecosistemico sta collassando, le risorse sono allo stremo. Non... dobbiamo immaginarci un mondo diverso, un mondo militarizzato non è un mondo che dà speranza né alle generazioni presenti né a quelle future. E quindi niente, questo è un percorso che andrà oltre la questione della base, ci aspettiamo, vogliamo che si ingrandisca, che soprattutto anche si unisca a tutti i percorsi di antimilitarismo, contro la repressione e l'oppressione, quindi è proprio un ragionamento che ci teniamo, che come processo sul territorio, nello specifico nostro perché poi siamo qui, ma che è proprio anche a livello nazionale, si radichi sempre di più nella mentalità, perché c'è tanto sconforto, c'è tanta... anche disillusione verso il futuro, soprattutto tra noi giovani, oltre ad essere agghiacciante, anche abbastanza, come dire, esplicativo poi di quella che è la situazione che stiamo vivendo. Ci sentiamo spesso dire: ma tanto la base la fanno, se la vogliono fare la fanno. A me viene da dire che il punto non è neanche questo, perché è proprio cambiare giorno dopo giorno, cercare di sradicare quella macchina capitalistica e devastante che ci ha cresciuto e che ha strutturato la società nella quale viviamo e che veramente ha le radici talmente tanto radicate dentro la nostra essenza che dobbiamo andare con calma, con cura, sradicarlo giorno dopo giorno, ma è un processo lungo ma che va iniziato assolutamente. Assolutamente. E questa è una grande occasione. Parole condivisibilissime. Grazie mille Rachele, e ci vedremo sicuramente il 2 giugno. Grazie a entrambe. Ciao, sì, grazie a voi. Ci vediamo il 2 giugno.